Euroreportage. I fitofarmaci nell'agricoltura europea, nemici o amici? Di Valeria Grandi. La Commissione europea ha rinviato a dicembre 2017 il verdetto sul glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo, la cui tossicità potrebbe essere un rischio per la salute. In attesa che gli Stati membri prendano una decisione, ci si torna a chiedere: sarà sicuro il cibo che mangiamo? In base a quali criteri l'Unione europea controlla l'uso di pesticidi e altri fitofarmaci nell'agricoltura e come vengono valutati i rischi per la salute e l'ambiente? Il regolamento in vigore è stato approvato a Bruxelles nel 2009, diventando molto più restrittivo rispetto a quello precedente. Tanto che di 1000 sostanze attive rianalizzate secondo la nuova normativa, 750 sono state ritirate dal mercato e altre 77 sono candidate a sostituzione. L'organo esecutivo della Commissione europea che autorizza il commercio di sostanze attive è la Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare. Il portavoce Enrico Brivio. La Commissione europea ha la competenza per le sostanze attive che sono contenute nei fitofarmaci, per autorizzare quindi prodotti che siano che non arrechino danni né all'ambiente né alla salute umana. Anche se invece la competenza di autorizzare i prodotti finali rimane agli Stati membri. Perché? Perché talvolta ci possono essere pratiche agricole o condizioni atmosferiche diverse da Stato a Stato. C'è un impegno europeo a un uso sostenibile dei fitofarmaci, dei pesticidi, anche perché sappiamo che la qualità dei prodotti europei è uno dei punti chiave, determinante per il successo dei prodotti europei nel mondo, e la legislazione europea sui fitofarmaci è la più restrittiva al mondo. Per autorizzare o rinnovare l'utilizzo delle sostanze attive, che a seconda del grado di pericolosità sono soggette a nuovi controlli ogni 7, 10 o 15 anni, la Commissione fa riferimento alle valutazioni dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. L'EFSA ha il compito di analizzare i dati provenienti dai paesi dell'Unione riguardo ai fitofarmaci in uso e a eventuali nuovi prodotti. Domenica Uteri, team leader del gruppo Ecotossicologia dei Pesticidi all'EFSA. Il ruolo di EFSA è nella fase, diciamo prima dell'introduzione del mercato, è quello di valutare i rischi per la salute umana e per l'ambiente, inclusi anche le specie, diciamo, non target di questi pesticidi, quali uccelli, mammiferi selvatici, pesci e le api. Per quanto riguarda la fase post-marketing, l'EFSA ha un ruolo nel raccogliere e analizzare i dati relativi ai controlli sulle derrate alimentari che vengono fatti dai diversi Stati membri. Infatti EFSA non è responsabile del controllo di per sé, perché le analisi vengono appunto effettuate nei laboratori dei diversi Stati membri dell'Unione Europea. Infatti all'EFSA non ci sono i laboratori. Come le fate le valutazioni senza i laboratori? Queste valutazioni sono fatte in condizioni di worst case, diciamo di caso peggiore, cioè assumiamo il massimo dell'esposizione possibile e il massimo della tossicità possibile, e sulla base di questi due elementi noi possiamo concludere o un rischio elevato o un rischio basso, e questa informazione è cruciale per chi poi deve prendere le decisioni. E l'aire se respira. Le analisi vere e proprie si svolgono quindi nei laboratori nazionali di riferimento, secondo le linee guida della normativa europea che stabilisce i parametri per esaminare i nuovi principi attivi e detta per ogni paese il numero di campioni alimentari da controllare. A coordinare il lavoro dei laboratori in Italia è l'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Danilo Attard Barbini, capo del reparto antiparassitari. C'è un controllo sia sulla produzione italiana, ma ugualmente c'è un controllo sulla produzione che proviene da fuori. In prima battuta vanno controllati i grossi centri di distribuzione, dopodiché a scalare come ordine di importanza fino al, se mi permette, il fruttarolo sotto casa, però lì probabilmente, per come le modalità di prelevamento sono indicate, è difficile trovare tutto il materiale necessario per effettuare un campione funzionamento ai sensi delle normative. Dalle analisi, qual è la percentuale di prodotti fuori norma? Siamo intorno allo 0,9-1% di irregolarità su base nazionale di tutti i prodotti che vengono prelevati e analizzati, quindi è una percentuale abbastanza bassa, anche perché il superamento diretto del limite comunque non prevede immediatamente et cur un danno potenziale per la salute del consumatore. La fissazione dei limiti prevede dei parametri di sicurezza di 100-1000 volte rispetto alle dosi che potrebbero causare qualche danno fisico o psichico. Nella lunga catena di controlli dei fitofarmaci, a fare da ponte tra i laboratori nazionali, l'EFSA e la Commissione europea, c'è poi il Ministero della Salute, che raccoglie e verifica i risultati ufficiali delle analisi per trasmetterli alle autorità europee. Elvira Cecere, responsabile per la regolamentazione dei prodotti fitosanitari al Ministero. Per quanto riguarda i risultati dei controlli, i campioni vengono fatti dalle ASL, le analisi vengono fatte dai laboratori del controllo ufficiale, che sono su tutto il territorio nazionale, che possono essere sia ARPA, sia istituti zooprofilattici sperimentali, sia laboratori di sanità pubblica. Quindi abbiamo un profilo variegato di laboratori che ha determinati requisiti e che inserisce questi risultati analitici secondo regole, diciamo, formali e sostanziali europee, cioè quindi mettendo una serie di informazioni, li inserisce in un sistema informatizzato del Servizio Sanitario Nazionale, che confluisce questi dati al Ministero della Salute, che li raccoglie, li seleziona e in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità li legge, ma sostanzialmente, diciamo, la lettura e la valutazione dei risultati, dei controlli e quindi l'impatto che questi residui possono avere sulla salute del consumatore vengono effettuati a livello europeo, tenendo conto però, quindi dall'EFSA, tenendo conto delle diete di ciascun paese. Con normative sempre più stringenti, l'Europa mira a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute e sull'ambiente. E l'Italia, che insieme a Francia e Germania resta tra i maggiori consumatori di fitofarmaci, ne ha diminuito notevolmente l'uso. Nel periodo 2002-2013 la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura è calata di oltre il 45%, ci dice Rolando Manfredini, capo della sicurezza alimentare di Coldiretti. Certamente c'è stato un razionale intervento o una razionale programmazione degli interventi. Quando si sono cominciate a utilizzare per esempio le trappole sessuali per valutare la presenza degli insetti, si sono avute immediatamente delle diminuzioni del 35-40% immediatamente, proprio perché si è passati dalla lotta calendario alla lotta mirata e con l'utilizzo magari di insetti utili, quindi con la valutazione anche nell'ambito del sistema della partecipazione di cosiddetti insetti utili, che sono quelli che predano i predatori, insomma. Ma sono state fatte anche delle selezioni, le direttive europee in questo caso sono chiare, sono state fatte delle selezioni per evitare l'uso, e quindi sono stati poi di fatto proibiti fitofarmaci che in un qualche modo hanno dimostrato la loro pericolosità. Continuare a essere competitive, dall'altro lato, le aziende italiane produttrici di fitofarmaci si sono orientate verso prodotti più performanti e allo stesso tempo più rispettosi dell'ambiente. Il valore complessivo del mercato, infatti, è addirittura aumentato, spiega il presidente di Agrofarma, Andrea Barella. Il motivo di questa diminuzione di volume e aumento di valore è determinato essenzialmente dalla grande dedizione delle società alla ricerca di prodotti con minor impatto ambientale, quindi usati a minori dosaggi, ma con la stessa efficacia o migliore efficacia, diciamo, sui patogeni. Chi analizza e garantisce la sicurezza dei nuovi prodotti da commercializzare? Prima di arrivare alla messa in commercio di un prodotto occorre uno screening molto lungo tra le varie molecole, tra i vari principi attivi, per individuarne quello che potrebbe essere poi un domani portato sul mercato. Questa valutazione è fatta sia in termini di efficacia sui patogeni, sulle varie colture, ma poi anche per fornire tutti i dossier e i dati tossicologici di riferimento per quel prodotto. Questo screening viene fatto prima di tutto dalle aziende produttrici, che poi sottopongono questi dati ai vari ministeri con i loro esperti, che sono assolutamente indipendenti, che vanno a verificare i dati forniti dalle aziende. La revoca di centinaia di sostanze tossiche e la diffusione di fitofarmaci sempre più sostenibili fanno ben sperare in alimenti più sicuri. L'ultimo monitoraggio dell'EFSA rivela che il 60% del campionamento è privo di residui tossici e il 97,5% dei casi risultati positivi rientra nei limiti stabiliti. Il più sarà capire se e quando questi limiti cambieranno di nuovo. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.